Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da giugno a dicembre del 1828. Ribellione nel Cilento, reagiscono i soldati dei Borbone che radono al suolo un paese. Il dramma del presidente americano, la moglie di Andrew Jackson muore 2 settimane dopo il voto che ha eletto il marito. Stati Uniti, primo sciopero di sole donne contro la stretta in fabbrica sui ritardi. La polizia sabauda fa chiudere, come nelle attese, l'indicatore genovese. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura andiamo nel Regno delle Due Sicilie, dove la repressione borbonica si è dispiegata con potenza inaudita. Il comune si chiama Bosco e si trova nel Cilento, a 2 passi da quella Palinuro che il re francese di Napoli, Gioacchino Murat, volle fortificare e della quale si innamorò. La data è il 28 giugno, quella nella quale il canonico Antonio Maria De Luca, in una zona già piagata da anni di occupazione austriaca, pronuncia una predica inneggiante alla libertà e alla Costituzione. È un attimo, il popolo si ribella e gli insorti assaltano la stessa fortezza di Palinuro, proclamando l'entrata in vigore della Costituzione francese, la diminuzione del prezzo del sale, l'abolizione di alcune tasse come quella fondiaria. Il tutto è durato 10 giorni. Re Francesco I ha dato pieni poteri al colonnello siciliano Francesco Saverio del Carretto e lui li ha utilizzati in maniera brutale. Bosco, dal quale tutto si è propagato, è stato cannoneggiato, saccheggiato e dato alle fiamme per 3 volte, per essere sicuri che nulla rimanesse in piedi. Il comune è stato soppresso e agli abitanti impedito di ricostruire là dove sorgevano le loro case. 200 gli arresti. In manette è finito anche De Luca, non catturato, ma consegnatosi spontaneamente per evitare che il suo stesso paese, Celle, subisse la sorte di Bosco. È stato sconsacrato e poi giustiziato, come altri 33 rivoltosi. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. È Andrew Jackson, il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il candidato democratico ha dominato il voto, ma ha dovuto subire un lutto terribile. La moglie è morta 2 settimane dopo la sua elezione. La stessa Rachel Jackson, che i repubblicani avevano portato al centro della campagna elettorale accusandola di bigamia. Jackson nasce da uomo del popolo, i suoi avversari lo hanno soprannominato Jackass, ossia somaro. Lui, che è uomo di spirito, sta seriamente pensando di usare proprio un asino come simbolo del partito. A Dover, nel New Hampshire, si è registrato, ed è la prima volta che si ricordi, uno sciopero di sole donne in una fabbrica tessile. Le signore, la cui agitazione è durata solo qualche giorno, protestano contro le nuove norme che prevedono, tra le altre cose, il taglio del 30% del salario giornaliero anche per un solo minuto di ritardo e la creazione di una blacklist. Tutte le donne licenziate da quella fabbrica verranno rifiutate dalle altre fabbriche della zona. Un nuovo attacco alla libertà di stampa. L'Indicatore genovese, periodico che ospitava una serie di interventi di stampo liberale, tra cui quello del giovane avvocato Giuseppe Mazzini, è diventato un caso ed è stato fatto chiudere. Ma i liberali stessi non si sono persi d'animo. Il livornese Francesco Domenico Guerrazzi ha appena aperto un altro periodico, che non a caso si chiama Indicatore Livornese, per il quale si è assicurato la collaborazione dello stesso Mazzini. È tutto sul nostro blog e sulla nostra pagina Facebook. Trovate notizie, spazi di discussione, approfondimenti sul nostro sito Il Foglio Quotidiano con immagini e notizie, missive digitali a Gazzettino e radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.